Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Pensavate di averle viste tutte, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questa settimana nel panorama politico italiano, no? Ne abbiamo parlato, un po' sintetizzate anche ieri le dimissioni di Fassina, i pasticci del governo sulla TASI, IMU, eccetera, eccetera, e poi 150 euro che si volevano levare retroattivamente agli insegnanti, Scelta Civica che ha dato l'ultimatum sulla TASI, Alfano, quindi il nuovo centrodestra, l'ultimatum sulle unioni gay, sì, parla di unioni gay, apriamo la crisi, e poi le accuse di ambiguità a chi sembrerebbe, di solito professor Rezzi, che voglia andare ad elezioni, e poi anche nei confronti di Forza Italia, poi gli attacchi dei renziani contro Saccomanni, insomma un sacco di fibrillazioni, di turbolenze. Pensavate che fosse finita qui, invece la settimana ci ha riservato il fine settimana una sorpresa, una bomba, come vedete, ancora più grande, bombetta o bomba grande, insomma è una cosa grossa, quello dell'annullamento delle elezioni regionali del 2010 in Piemonte. Quindi sembra che lì sia tutto da rifare, che si debba andare probabilmente in primavera a nuove elezioni. Poi ne parleremo, insomma, per dirvi che fino alla fine della settimana c'è stato un certo movimento. Come vi dico spesso, la politica in Italia non ci dà mai modo di annoiarci. E poi oggi c'è stato l'incontro tra i due amici rivali Letta e Renzi, dicono un incontro molto positivo, anche se secondo qualcuno in realtà si sono dati degli avvertimenti reciproci. Letta avrebbe detto a Renzi stai attento perché se fai saltare tutto poi ne rispondi, mentre Renzi avrebbe detto mi raccomando, avrebbe detto Letta, non voglio veti. Tra l'altro un'ulteriore sorpresa alla riserva, tanto sorpresa forse se lo si poteva aspettare, Berlusconi che dice vorrei fare il capolista in tutte le regioni per le europee, e qua cercheremo di capire, ho visto già i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte a questo annuncio, cercheremo di capire poi con un costituzionalista se è possibile o no, perché sembrava che con la condanna del processo Mediaset non potesse per un bel po', insomma, occuparsi di questo e ricoprire uffici pubblici. Cercheremo di scoprirlo, intanto scopriamo quali sono state le notizie principali di oggi. Come vi dicevo, Regione Piemonte, il TAR annulla le elezioni regionali 2010, Cota assicura il Presidente della Regione farò ricorso e l'ex Presidente Bresso si dice soddisfatta e dice a Radio 24 in questi anni c'è stata una maggioranza abusiva. Letta Renzi, oggi incontro positivo, Berlusconi annuncia vorrei candidarmi alle europee e rilancia l'Election Day per il 25 maggio. Fiat, dopo l'intervista di Marchionne a Repubblica, il numero uno della Fiom Landini attacca fabbriche fantasma solo sui giornali. La vicenda dei Marò torna il rischio di pena di morte, Letta commenta inaccettabile, saremo al loro fianco sino a quando li riporteremo a casa. Buone notizie arrivano da parte per quanto riguarda gli acquisti, partenza positiva per i saldi invernali che, spiegano i commercianti, segnano un'inversione di tendenza. Partiamo quindi dalla tegola che si è abbattuta sulla giunta del Piemonte. Ci sono voluti 3 anni di attesa e alla fine poi il TAR del Piemonte ha dato ragione al ricorso dell'ex presidente Mercedes Bresso, annullando le elezioni che avevano incoronato l'attuale presidente leghista del Piemonte, Cota. Il ricorso di Bresso era contro il risultato delle elezioni regionali del 2010, ricorso che era dovuto allo scandalo legato alla scoperta di firme false per la presentazione della lista dei pensionati per Cota di Michele Giovine, poi condannato in via definitiva a 2 anni e 8 mesi di carcere. Allora sentiamo la reazione da Sky dell'attuale presidente del Piemonte Roberto Cota. Io ho vinto le elezioni, i piemontesi hanno votato, mi hanno scelto, oltretutto con molti voti disgiunti, e io difendo il diritto dei piemontesi ad aver eletto un presidente e oltretutto in un momento così delicato io devo governare. Ci sono persone lautamente pagate per distruggere, io invece lavoro per governare il Piemonte e lavoro per portare avanti il mio programma di riforma e di risanamento. La gente manifesterà di fronte a quello che è successo, giù le mani dal Piemonte. Io so che ho toccato diversi interessi facendo il governatore di questa regione, ho fatto delle riforme importanti sulla sanità. Non sono amico dei potenti, non sono dentro un certo sistema di potere, una certa cappa. Penso che questo sia un fatto che ha scatenato molte persone. E adesso invece il commento di Mercedes Bresso, intervistata da Paolo Panceri. sono lieta che sia stata fatta giustizia, anche se purtroppo quasi 4 anni dopo l'inizio dei nostri ricorsi. E questo significa che la giustizia sul piano formale viene fatta, ma che la giustizia sostanziale non sarà fatta mai. Intanto la maggioranza di centrodestra ha governato abusivamente il Piemonte, se posso dire lo ha anche nel frattempo distrutto, adesso addirittura si sentono vittime, quasi che chi abusivamente ha gestito 4 anni il potere considerasse che in qualche modo questo lungo periodo di abusivismo costituisca un usucapione, e cioè un diritto divino a restarci. È assolutamente inverosimile, cioè siamo nella situazione in cui è il colpevole a accusare chi ha semplicemente chiesto giustizia e accusare contestualmente anche la magistratura di essere tutta comunista. Sul piano politico cosa intendete fare? Tra l'altro c'è già un probabile candidato che è Sergio Chiamparino. Allora, sul piano politico la battaglia continua, perché la sentenza è esecutiva, ma può essere oggetto di ricorso al Consiglio di Stato con la richiesta di sospensiva, e quindi la battaglia continua per ottenere che il Consiglio di Stato, se ci sarà questo ricorso, come immagino, decida molto rapidamente. Noi siamo convinti che confermerà, perché la vicenda è molto chiara e penso sia difficile una modifica della decisione. Però è importante che si riesca ad andare a elezioni entro la prossima primavera, insieme alle altre amministrative europee, diciamo nell'election day. Il candidato Chiamparino va certamente bene, ma come dire, prima di avere un candidato abbiamo bisogno di avere le elezioni. Eventualmente lei potrebbe essere disponibile a mettersi in competizione con Chiamparino? Ma guardi, io sono una militante del mio partito e quindi spetterà prima di tutto al partito, ma anche alla coalizione, prendere una decisione. Anche su questo tema potete esprimere le vostre libere opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Note, Effetto Note-Roberta Giordano. Ma restiamo ancora sulla politica, perché prosegue la verifica sul futuro del governo da parte del Presidente del Consiglio Letta, che oggi ha incontrato, come vi dicevo, il segretario del PD Renzi. Il Presidente del Consiglio ottimista ha giudicato sostanzialmente positivi gli incontri avuti fino ad oggi, quindi anche quello di questa mattina con Matteo Renzi. Questo l'hanno riferito al termine dell'incontro a Palazzo Chigi i vertici di Centro Democratico Bruno Tabace e Pino Pisi, che aggiungono: nel 2014 basta scaramucce. E Letta poi ha aggiunto: io e Renzi abbiamo voglia di applicarci, un po' come gli studenti che si devono applicare. E intanto il leader di Forza Italia Berlusconi propone invece l'election day per il 25 maggio, e quindi europee politiche insieme, insomma, e annuncia che intende candidarsi come capolista per le europee in tutte le circoscrizioni, con un come vi dicevo, con un costituzionalista. Poi cercheremo di capire appunto se questo è realizzabile, possibile. E oggi c'è stata la riunione del Consiglio dei Ministri. C'è stato via libera al cognome della madre ai figli e al rifinanziamento delle missioni internazionali. Se i genitori saranno d'accordo, anche in Italia, al posto di quello del padre, tra non molto, i figli potranno assumere il cognome della madre o quelli di entrambi i genitori. Questo prevede il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri per dare una risposta ai richiami arrivati al nostro paese dalla Corte di Giustizia europea. Le novità saranno valide anche per i figli adottivi e per quelli nati fuori dal matrimonio, e verranno applicate alle dichiarazioni di nascita successive all'entrata in vigore della legge. Si è anche deciso di istituire un gruppo di lavoro interministeriale, dovrà valutare le implicazioni del provvedimento e stabilire cosa fare in situazioni particolari, ad esempio in caso di genitori in disaccordo. Il Consiglio dei Ministri ha varato anche 2 decreti legislativi sulla riforma dello strumento militare, interventi che prevedono, tra l'altro, una riduzione del personale delle forze armate di circa 20.000 unità entro il 2024. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Passiamo adesso alla Fiat, ci sono ancora reazioni dopo le dichiarazioni del numero uno dell'azienda Marchionne sul futuro di Fiat. Protesta il segretario della FIOM Landini, che parla di fabbriche solo sui giornali. Sindacati, datori di lavoro d'accordo sulle regole per misurare la rappresentatività, CGIL, CISL, UIL e Confindustria hanno infatti nel pomeriggio varato il regolamento attuativo sulla rappresentanza e la democrazia sindacale in un'intesa siglata dai rispettivi leader. L'accordo è il 31 maggio scorso, ritenuto storico, diventa così operativo. L'intesa nel giorno in cui i sindacati però si dividono sul piano Fiat, presentato da Sergio Marchionne in un'intervista a Repubblica. La D. Dell'Ingotto ha annunciato di voler uscire dal mercato tradizionale per entrare nella fascia premium. Nel polo Mirafiori Grugliasco faremo le Maserati, ha spiegato Marchionne. A Melfi la 500 XL e la piccola Jeep, a Cassino il rilancio Alfa Romeo, i cui nuovi modelli, ha specificato, sono già in preparazione in stabilimenti fantasma in giro per l'Italia. Un piano che, secondo la Didi Fiat, consentirà, mercato permettendo, di far rientrare tutti gli operai al lavoro. Un messaggio positivo che aspettavamo da tempo, il commento di Wilm Film Cisl. Dura invece la reazione di Maurizio Landini della FIOM. Non siamo di fronte a garanzie, siamo di fronte a previsioni e serve una discussione approfondita e non fatta sui giornali. Insisto, concentrarsi solo sul polo del lusso non garantisce la tenuta dei livelli occupazionali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiando argomento, invece, andiamo sulla vicenda della Costa Concordia, perché sono 12 i porti in lizza per lo smaltimento della nave. Di questi porti, 5 sono italiani e oggi sono state definite le tappe della definitiva rimozione del relitto. Noi contiamo, entro il mese di marzo, di arrivare alla individuazione del porto di destinazione. È arrivata in una notte d'inverno, se ne andrà sotto il sole dell'estate. Se i tempi che il commissario straordinario Franco Gabrielli annuncia saranno rispettati, la Concordia lascerà l'isola del Giglio a giugno, diretta verso il suo ultimo approdo stabilito a marzo. Due tappe precise che fanno infiammare di nuovo la guerra tra porti, tra l'Italia e l'estero, con Francia, Turchia e Cina in lizza, e tra i porti italiani tra loro, Piombino, Genova, Palermo e Civitavecchia. Tutti vogliono accogliere la grande nave, simbolo di una sciagura costata la vita a 32 persone, ma ora anche affare da 300 milioni di dollari, in grado di rilanciare poli siderurgici boccheggianti, e per questo il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando non esita a dire che il governo preme per una soluzione interna. Il governo italiano, il ministero dell'Ambiente, preferirebbe una destinazione nazionale. Nella vicina Piombino stanno facendo una corsa contro il tempo per completare i lavori del porto ed essere in grado di ricevere la Concordia. A Palermo sarebbe la stessa Fincantieri che l'ha costruita a smantellare la nave, e nell'una come nell'altra città sarebbe un volano per un'economia depressa, ma Genova e Civitavecchia combatteranno questa battaglia fino all'ultimo colpo. Raffaella Calanda, Radio 24, Sole 24 Ore. E adesso il travagliato caso dei Marò. Il governo indiano ha fatto sapere oggi che deciderà nei prossimi giorni sul possibile ricorso alla pena di morte per i due fucilieri. Torna lo spettro della pena di morte per i due Marò. La decisione se applicarla o meno sarà valutata dal governo di Nuova Delhi nel giro di 2 o 3 giorni, a riferirlo il ministro dell'interno indiano. L'intricata vicenda riguarda Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, accusati dell'omicidio di 2 pescatori indiani nel febbraio del 2012, avvenuto fuori delle acque territoriali. La legge nazionale non sarebbe quindi applicabile, ma per rivendicarne la competenza i magistrati indiani possono invocare la legge antipirateria, il cosiddetto Suet, che prevede appunto la pena di morte, opzione però più volte esclusa in passato dalle autorità indiane. Inaccettabile il non rispetto delle assicurazioni, commenta il premier Letta invitando il governo indiano ad agire di conseguenza a quanto promesso, mentre Staffan de Mistura, inviato speciale del governo italiano in India, annuncia che in quel caso ci saranno contromisure, e l'opposizione attacca una vicenda che sta superando i limiti della vergogna e chiede che l'esecutivo riferisca in Parlamento. Ma intanto il fratello di Salvatore Girone si dice tranquillo. Tranquillo, sono voci che girano da tempo, ma sappiamo benissimo che è una legge inapplicabile ai nostri ragazzi e senz'altro verranno smentite nei prossimi giorni. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi vi ricordo, ne parliamo di questo argomento con un ospite più tardi. Adesso invece tocchiamo l'argomento case. Il trend è ancora in ribasso per il prezzo delle abitazioni, ma vi sono dei segnali timidi di mantenimento. Rispetto al 2011, infatti, ci sono elementi positivi sia sulla compravendita sia sulla tenuta dei prezzi. Nell'arco di 6-8 mesi penso che ci sarà una lieve ripresa, così ha dichiarato il segretario generale dell'UPI, l'associazione piccoli proprietari di case, Fabio Pucci. E per chiudere, i saldi avvio positivo, con un incremento medio del 10% rispetto allo scorso anno. Questo lo rileva la Fismo Confesercenti, evidenziando una spesa media tra gli 80 e i 100 euro, con punte di 150-200 euro soprattutto nel centro Italia. Un dato significativo, commenta così Roberto Manzoni, presidente della Fismo, il ramo moda di Confesercenti, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Una partenza in controtendenza all'economia degli ultimi anni, sicuramente è un segnale positivo, e purtroppo temiamo tutti che sia un fuoco di paglia. In molti evidenziano come questa fiammata iniziale sia dovuta proprio al fatto che fin da subito si è partiti con percentuali importanti di sconti. Purtroppo sì, è stato un anno molto negativo, al di là della crisi economica, dell'incertezza politica, anche la stagione ha giocato contro, una primavera piovosa, un'estate in ritardo, l'inverno di fatto non ancora arrivato e quindi ha rallentato molto le vendite, i magazzini sono appesantiti e noi imprenditori avevamo bisogno di alleggerire un po'. Subito 30-40%. Un po' sopra la media, sì. Un dato complessivo del 10% città per città, cosa si può evidenziare? Ma direi che la tendenza media, un po' meglio il centro Italia, ma tendenzialmente quello da Milano, Torino, Bologna, Firenze, Brindisi. Insomma, quindi un po' meglio del previsto, per fortuna. Adesso facciamo una sosta per aggiornare chi viaggia e c'è sempre la pagina Facebook a vostra disposizione, effetto notte trattino Roberta Giordano, per i vostri commenti, in particolare se volete a questo annuncio di Silvio Berlusconi che ha detto voglio candidarmi in tutte le regioni per le europee. Naturalmente anche potete esprimervi su tutti gli altri argomenti di questa sera. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ci sono già, dicevo, i vostri commenti. C'è un ascoltatore che scrive: un pregiudicato capolista alle europee, viva l'Italia. Questo è il commento di un ascoltatore. Però vi ricordo, prima di passare al primo ospite di questa sera, quali sono stati i fatti principali della giornata. A partire dal Piemonte, col TAR che annulla le elezioni regionali 2010, Cota, il presidente, assicura farò ricorso, l'ex presidente Bresso si dice soddisfatto e a Radio 24 commenta: in questi anni c'è stata una maggioranza abusiva. Letta Renzi oggi incontro positivo e Berlusconi annuncia vorrei candidarmi alle europee e rilancia l'Election Day per il 25 maggio. Fiat, dopo l'intervista di Marchionne a Repubblica, il numero uno della FIOM, Landini attacca fabbriche fantasma, ci sono solo sui giornali. La vicenda dei Marò, che affronteremo anche stasera, torna il rischio di pena di morte, Letta commenta inaccettabile, staremo al loro fianco sino a quando li riporteremo a casa. E poi per gli acquisti, lo avete appena sentito, c'è una partenza positiva, così spiegano i commercianti che segnano questi acquisti un'inversione di tendenza. Quindi dicevamo dell'ennesimo caso politico di questi giorni che ha chiuso la settimana, quello del TAR del Piemonte che annulla il regionale 2010 per queste firme della lista pensionati che sarebbero state falsificate. Quindi si potrebbe già tornare al voto in Piemonte in primavera. Sono passati 4 anni, ancora un po' e finisce la legislatura. È stato quindi accolto il ricorso di Mercedes Bresso, che è l'ex presidente della regione Piemonte, che aveva perso per 9.000 punti, quindi è tutto da rifare. Questo ricorso era dovuto allo scandalo legato appunto alla scoperta di firme false per la presentazione della lista dei pensionati per Cota di Michele Giovine, che poi era stato condannato in via definitiva a 2 anni e 8 mesi di carcere. E vorrei sentire su questo fatto piuttosto eclatante di questo annullamento dei risultati delle regionali 2010 al professor Marcello Clarice, che saluto. Buonasera professore. Buonasera. Docente di diritto amministrativo all'Università Luis Guido Carli di Roma. Quindi la situazione è questa, professore. Mi pare che ci sia messo un po' di tempo, tra l'altro, no, per accertare i fatti. Beh, nel senso che questa sentenza per ora è uscita solo nel dispositivo, cioè nelle conclusioni di accoglimento e di annullamento delle elezioni. Bisogna aspettare le motivazioni per vedere con più attenzione le ragioni dell'annullamento. Il tempo c'è anche perché questa sentenza può essere appellata davanti al Consiglio di Stato, che potrebbe rovesciare l'impostazione. Quindi prima avevamo sentito sia l'intervista a Mercedes Bresso sia che cosa aveva detto Cota, ma insomma in sintesi adesso magari proviamo anche a riproporli. Mercedes Bresso adesso ha detto è stato quindi un governo abusivo e Cota se ne deve andare, cioè dice deve immediatamente lasciare, deve dare le dimissioni, però appunto Cota dice è una vergogna, vogliono mettere le mani sul Piemonte e aggiunge fino a che non ci sarà la sentenza del Consiglio di Stato io non mi muovo. Ecco, diciamo che la sentenza in ogni caso non è definitiva perché c'è l'appello, però è esecutiva, cioè oggi effettivamente le elezioni sono state celebrate in modo illegittimo, anche se il Consiglio di Stato tra pochi giorni potrebbe invece rovesciare questa impostazione e dire che sono legittime. Quindi da un lato bisogna aspettare la sentenza quindi per essere giudicato. Non è nulla di definitivo, insomma, bisogna aspettare. No, questo no, però oggi se uno legge la sentenza dice chiaramente che ci sono il dispositivo e si annulla l'atto di proclamazione degli eletti ai fini della rinnovazione della competizione elettorale. Questo c'è scritto oggi nella sentenza. Quindi il fatto che Cotta si possa dimettere è solo una questione di opportunità o meno, perché da un punto di vista invece, possiamo dire, giurisprudenziale, legale, può rimanere fino a che non c'è la sentenza definitiva del Consiglio di Stato. Beh, diciamo, la possibilità è di chiedere la cosiddetta sospensiva, cioè il Consiglio di Stato potrebbe sospendere l'effetto di questa sentenza anche in pochi giorni e quindi Cotta potrebbe restare almeno tranquillo fino alla sentenza passata in giudicato. Però, professor Claric, con questo annullamento delle regionali 2010 non c'è nulla di retroattivo, non è che quindi tutto quello che magari è stato fatto, delibere, norme, decisioni, provvedimenti durante questi 4 anni, perché dal 2010 che c'è la giunta Cotta, non significa che debbano essere cancellate, no? Tanto no, così assolutamente per no, gli atti, tutti gli atti amministrativi restano validi. Perché vige un principio giuridico che si è applicato anche agli atti della Repubblica di Salò molti anni fa, per cui c'è una continuità amministrativa a prescindere da eventi di questo genere o altre illegittimità rilevate. Tra l'altro, professor Claric, da più parti è stato detto che è il primo caso in assoluto nella storia della Repubblica Italiana, ma in realtà nel 2011 c'è stato anche il caso Molise. Esatto, certamente anche in quel caso c'è stata una vicenda abbastanza simile, quindi non è infrequente che siano impugnate le ammissioni delle liste per firme false o per altre ragioni. Certamente l'impatto, soprattutto a 4 anni di distanza, è molto elevato. Ma adesso che cosa, a parte il Consiglio di Stato che deve dare l'ultima parola, professor Claric, ma che cosa potrebbe, intanto se andrà, se dovesse il Consiglio, in che tempi fra l'altro, in che tempi il Consiglio di Stato, visto che ci ha messo tanto ad arrivare ad accettare il ricorso, ecco, di Mercedes Bresso, sì, il Consiglio di Stato entro quanto potrebbe dare una risposta? Il Consiglio di Stato anche in pochissimi giorni. I tanti anni che sono, sì, 4 anni, sono dovuti soprattutto al fatto perché c'è stata una fase lunga davanti al giudice penale per accertare questi fenomeni di falsità che riguardano soprattutto le false autentiche di consiglieri comunali che hanno autenticato fuori dalla loro circoscrizione. C'è stato un giudizio penale fino in Cassazione, questo ha richiesto tanto tempo, per cui il TAR ha poi ripreso in mano la questione da un tempo relativamente breve. Perché lo ricordo, Mercedes Bresso aveva già fatto ricorso quasi immediatamente, subito, sì, no? Il 2010. Anche perché i termini per fare questi ricorsi sono brevissimi, solo che poi è stata sospesa sostanzialmente la vicenda in attesa di questi accertamenti penali. Quindi aspettiamo la sentenza del Consiglio di Stato, che speriamo arrivi in pochi giorni per il bene di tutti, insomma. E vedo già, insomma, abbiamo visto oggi che il PD dovrebbe candidare Chiamparino e Mercedes Bresso forse dovrebbe essere candidata invece alle elezioni europee. Per il centrodestra mi sembra che ancora non si facciano nomi, probabilmente anche per non turbare l'attuale equilibrio e Cotta stesso, che prima di anticipazioni vuole vedere, insomma, che cosa succede con il Consiglio di Stato, no? Certamente, mi sembra molto ragionevole. Grazie professor Claric. Buonasera. Grazie. Grazie a lei. Invece adesso vorrei affrontare l'altro caso politico di oggi, che è appunto l'annuncio di Silvio Berlusconi di volersi candidare in tutte le regioni alle elezioni europee. Un po' tutti ricorderete, insomma, che dopo la condanna per il processo Mediaset e dopo la decadenza, quindi da senatore in Parlamento, doveva essere più o meno, da quello che si sapeva, impossibile poi per l'interdizione ai pubblici uffici il candidarsi alle europee o eventuali elezioni in Italia. Però invece è una sfida di Berlusconi. Professor Ceccanti, docente di diritto costituzionale comparato alla Sapienza di Roma, che dice lei? È possibile? No, non è possibile? Allora dico questo, sì. L'interdizione ai pubblici uffici ancora non è definitiva. Non è definitiva? Quindi, no, quindi noi stiamo parlando della legge Severino, che funziona a parte, che renderebbe incandidabile Berlusconi comunque anche per l'europea, a prescindere dall'interdizione dei pubblici uffici. Quindi lui sulla base della legge Severino non si potrebbe candidare. Ora ovviamente però lui può fare una cosa, cioè nel momento in cui lui mette il suo nome nelle liste, gli organi composti dai magistrati, che sono gli organi competenti, che si chiamano uffici elettorali, lo cancellano dalla lista, lui può tentare di rifare l'operazione che ha cercato di fare in giunta delle elezioni, cioè può fare un ricorso al TAR, chiedere al TAR di sospendere l'applicazione della legge in attesa di attendere la Corte Costituzionale che stabilisca se la legge Severino è o no costituzionale. Quindi lui tenta questa operazione col TAR. Ma questo comporterebbe che, quindi, si aspetterebbe la Corte Costituzionale che potrebbe annullare il tutto? Il problema è questo, sì. Lo decide il TAR. Cioè, se il TAR decide che è manifestamente infondato il ricorso di Berlusconi, perché è chiaro che la legge Severino è costituzionale, Berlusconi perde la partita e non si candida. Se invece il TAR in qualche modo gli dà ragione, la palla passa alla Corte Costituzionale. In ogni caso, immagino che Berlusconi ci voglia impostare una parte della campagna elettorale. Quando anche risultasse sconfitto, diciamo, rispetto al TAR, potrebbe cercare di fare una campagna di tipo vittimistico per mobilitare il proprio elettorato di appartenenza. Ceccanti, però mi chiedo questo. Allora, uno, anche lei chiedo, il TAR quanto tempo ci potrebbe mettere? Il TAR si pronuncia d'urgenza, quello non dovrebbero esserci problemi a una decisione pronta del TAR. Però non è stato fatto ricorso? Allora, no, perché il problema è questo. Lui prima deve presentare la lista, quindi dobbiamo aspettare il momento della presentazione della lista, una trentina di giorni prima delle elezioni europee. A quel punto i magistrati lo cancellano e lui fa ricorso subito al TAR. Fa ricorso subito al TAR che entro le elezioni o entro il voto dà una risposta e in quel caso quindi si decide lì proprio in corso d'opera. Sì, comunque sia, diciamo, questo fa comunque parte della sua campagna elettorale, no? Cioè, dal punto di vista di Berlusconi, se anche il TAR gli desse torto, farebbe una campagna con i magistrati, certo. TAR compreso, che gli danno torto. Siccome alle europee il problema di fondo è di riuscire a portare gli elettori a votare, quindi non dobbiamo leggerla come una mossa giuridica, dobbiamo leggerla come una mossa politica di tentare di mobilitare un elettorato tentato dalla sezione. Sto guardando intanto anche i commenti su questo tema sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Massimo scrive: ma non può, interdetto e decaduto, in più sarà ristretto agli arresti o ai servizi sociali. Ecco, questa cosa dei servizi sociali quando dovrebbe invece essere questo bisogna vedere, perché anche qui bisogna vedere i tempi finali. Non so se questo avverrà prima del 25 maggio, perché ci sono delle procedure. Io ora non so come sono messe le cose alla Procura di Milano, né alla Procura di Milano per quanto riguarda i servizi sociali, né per quanto riguarda la questione dei tempi finali della Cassazione sull'altro profilo che lei ha esaminato prima, cioè quello di interdizione dei pubblici uffici. Francamente non ne ho idea da questo punto di vista. Giuseppe scrive: forse in un altro stato dell'Unione, forse potrebbe. Questa è anche un'ipotesi che si era fatta. No, questo non è vero, perché anche se la legislazione europea, una legislazione per le elezioni europee che si fa paese per paese, c'è una direttiva europea sugli aspetti comuni che dice che ti puoi candidare fuori dal tuo paese solo se tu sei comunque candidabile nel tuo. Quindi se Berlusconi non è candidabile in Italia non si può neanche candidare da un'altra parte. Poi ci sono Tony e Astrid che danno un po' segni di insofferenza, e poi Riccardo che scrive che Berlusconi voglia avvicinarsi sempre più a Bruxelles, ormai è palese, rivendica i suoi diritti lesi dalla magistratura italiana, secondo i suoi sostenitori, viene da pensare altresì che voglia continuare a stare sulla breccia per curare gli interessi di famiglia che hanno visto la strada spianata dalla politica, eccetera, eccetera. Quindi fa la sua analisi. E poi Domenico dice: credo che il Parlamento europeo sia un ufficio pubblico, ergo ci risparmi la sua candidatura. Però il professor Ceccanti ci spiegava, insomma, come stanno le cose rispetto a una possibile sentenza del TAR e così via, insomma, gli altri commenti. Quindi abbiamo capito, Stefano Ceccanti, che si ha tempo più o meno fino a pochi giorni prima del 25 maggio per capire che cosa sarà possibile che succeda, giusto? Sì, comunque, diciamo, io francamente penso che non è che Berlusconi si attenda a un giudizio positivo, però ai fini mobilitari elettorato di Forza Italia, che crede fermamente che ci sia un meccanismo di chiusura dell'intero ordine giudiziario contro Berlusconi, se anche il TAR gli desse torto, per così dire, si confermerebbe questa teoria esposta a Berlusconi. Quindi in qualche modo per la galvanizzazione del suo elettorato forse potrebbe anche funzionare. Però appunto è una partita politica, non è una partita giuridica, secondo me. Molto chiaro. Grazie, professor Ceccanti. Prego. Grazie, buona serata. E leggo ancora, ci sono poi molti altri vostri commenti. C'è Claudio da Verona che scrive: il regime comunista riesce anche ad annullare delle elezioni, la vergogna è che vengano annullate dopo 3 anni e mezzo. E poi un insulto, diciamo così. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamolo quindi il filo delle notizie, delle storie, dei fatti da raccontare anche questa sera col finire della settimana. Leggo ancora un messaggio, vi ricordo che c'è la pagina Facebook Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure i messaggi da mandare al 349-238-6666. Questo ascoltatore o ascoltatrice non si firma, scrive: Berlusconi si è riproposto una prima volta e ha tirato fuori le olgettine, una seconda ed uscita l'evasione fiscale con condanna, ora se si ripropone per la terza, tremo, dice, per il paese all'idea di cosa salterà fuori. Ma ritorniamo sui titoli principali di oggi. La vicenda del Piemonte, con il TAR che annulla le elezioni regionali 2010, Cota assicura che farà ricorso e Mercedes Bresso, ex presidente, si dice soddisfatta e commenta: in questi anni c'è stata una maggioranza abusiva. C'è stato l'incontro poi tra Letta e Renzi che è giudicato positivo e intanto Berlusconi annuncia: vorrei candidarmi alle europee, e rilancia l'Election Day per il 25 maggio. La vicenda dei Marò torna il rischio di pena di morte, Letta commenta: è inaccettabile, saremo al loro fianco sino a quando riusciremo a riportarli in Italia. E poi per gli acquisti partenza positiva per i saldi invernali. Quindi vi dicevo, questa storia travagliatissima dei Marò, ormai sono passati quasi 2 anni di battaglie legali, 2 Marò italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, sono ancora detenuti in India. Il tutto era successo, questa controversa vicenda, il 15 febbraio, vi ricordate, del 2012, quando un mercantile battente bandiera italiana, la Enrica Alexi, aveva incrociato un'imbarcazione di pescatori locali nel corso di un'operazione antipirateria e, secondo l'accusa, secondo le accuse delle autorità locali indiane, aprono il fuoco contro 2 civili scambiandoli per pirati, e così muoiono 2 pescatori, 2 padri di famiglia, e questo scatena l'incidente diplomatico, lo scontro diplomatico tra Roma e Nuova Delhi. E ogni tanto, non solo perché abbiamo ben presente che sono ancora là i Marò, ma per diciamo delle affermazioni, delle dichiarazioni molto inquietanti, soprattutto da parte della stampa indiana, la vicenda risalta fuori con particolare enfasi. Oggi un giornale indiano ha titolato che c'è ancora il rischio di pena di morte per i 2 fucilieri, quindi il Presidente del Consiglio Letta ha detto inaccettabile che ogni poco saltino fuori queste dichiarazioni, che non si mantengano gli accordi, dice: noi saremo, come avete sentito, vicino ai 2 fucilieri fino a quando non riporteremo in Italia. Saluto, per capire qualcosa di più di questa faccenda internazionale, Elena Sciso. Buonasera professoressa. Buonasera a lei. Che è docente di diritto internazionale all'Università Luiss di Roma. Quindi intanto cerchiamo di capire dove parte il pasticcio, dove parte il pasticcio nel senso che i 2 fucilieri, si dovrà capire appunto se hanno veramente sparato, se hanno ucciso loro, o immagino ovviamente non volontariamente, i 2 pescatori. Che cosa si poteva evitare in quel momento, cosa si poteva fare perché la vicenda non prendesse questa direzione? Beh, ci sarebbe da dire veramente molto. Direi che forse l'errore iniziale è stato far fare marcia indietro alla nave, che ormai aveva raggiunto le acque internazionali, e farla approdare nel porto indiano di Kochi, perché lì indubbiamente l'India ha potuto legittimamente salire a bordo della nave e altrettanto legittimamente ha potuto poi fermare i 2 Marò presunti colpevoli dell'omicidio di questi 2 pescatori indiani. Poi c'è stata francamente una sequenza di errori o comunque di superficialità. Diciamo che l'azione diplomatica italiana non è stata forse particolarmente incisiva e ha presentato alcuni aspetti di palese incoerenza, soprattutto in certi momenti. Ecco. Quali aspetti in particolare di incoerenza? Ma dunque, innanzitutto ripeto, il rientro della nave nel porto di Kochi, l'incidente era avvenuto fuori dalle acque territoriali. Quindi in acque internazionali? Esattamente non, per il diritto internazionale marittimo era venuto nella zona contigua, però i poteri dello Stato costiero, quindi in questo caso dell'India, nella zona contigua, per quello che riguarda l'esercizio della giurisdizione, sono esattamente gli stessi poteri che l'India ha nel mar, nell'alto mare, quindi nel mare internazionale, nel senso che l'India non aveva giurisdizione in relazione a quello che è successo nella zona contigua, ma dopo l'incidente la nave si era ulteriormente spostata in avanti, quindi si trovava in acque internazionali quando è stata raggiunta da una comunicazione indiana che chiedeva al comandante di portare la nave in un porto indiano, nel porto di Kochi, per poter interrogare l'equipaggio circa la cattura di alcuni pirati che sarebbe avvenuta secondo le autorità indiane e in merito all'identificazione dei quali le autorità indiane volevano valersi della testimonianza dell'equipaggio. Ma quindi una specie di raggiro, vogliamo dire? Diciamo. Diciamo. Diciamo pure. Però vede, dal punto di vista poi giuridico poco importa come l'India è riuscita ad attirare la nave nel porto indiano, fatto sta che la nave non avrebbe dovuto muoversi dalle acque internazionali dove aveva tutta la tutela del diritto internazionale. Cosa doveva mettere, l'ancora o doveva prendere un'altra direzione quindi? Beh, l'ancora no, in mare internazionale la nave era in navigazione e doveva proseguire lungo la sua rotta, non doveva fare marcia indietro, ecco. Semplicemente questo. È stata una decisione del comandante che a sua volta dice di avere ricevuto l'input dell'armatore. Il punto è che a bordo questa nave ovviamente ospitava 6 fucilieri, cioè 6 appartenenti alla Marina Militare Italiana, che erano quindi la diretta dipendenza del Ministero della Difesa. Questo significa che la decisione del comandante della nave non può essere stata totalmente autonoma rispetto alla valutazione del Ministero della Difesa. Anche perché il Ministero della Difesa sarà stato indubbiamente avvisato dal team militare a bordo dell'intenzione del comandante di andare in un porto indiano. Quella è stata la prima forse superficialità. A questo punto, dopo appunto queste coerenze, queste superficialità e poi probabilmente anche, cosa vogliamo dire, una non adeguatezza nelle operazioni diplomatiche forse del, non so, del nostro governo? Sì, perché noi abbiamo subito sollevato la incompetenza indiana, secondo dal nostro punto di vista, abbiamo sostenuto la giurisdizione italiana basandola su 2 argomenti, uno dei quali soprattutto abbastanza forte. Un argomento si basava e si basa sul luogo nel quale l'incidente che ha causato la morte dei 2 pescatori indiani è avvenuto, appunto acque non soggette alla giurisdizione indiana, quindi al di fuori delle acque territoriali indiane. La seconda, e quindi l'Italia ha invocato sotto questo profilo, la Convenzione di Montego Bay, la Convenzione sul diritto del mare, di cui sono parti sia l'Italia che l'India. E tanti altri paesi. Tanti altri paesi, sì. Altri 160 paesi. Il secondo argomento, a mio avviso, più forte, perché poi quell'articolo della Convenzione di Montego Bay richiamato dalla difesa italiana non è del tutto probante, cioè si presta a varie interpretazioni. Sì, si presta a interpretazioni. Però molto più pregnante, molto più significativo è il secondo argomento di difesa prodotto dall'Italia, il fatto che i 2 Marò sono organi militari dello Stato italiano e si trovavano a bordo dell'Enrica Lexi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Ora, gli organi di uno Stato godono della cosiddetta immunità funzionale, cioè non possono rispondere davanti ai giudici di un altro paese per condotte commesse nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, perché queste condotte, poste in essere dall'individuo organo, sono in realtà ascrivibili allo Stato, quindi l'Italia avrebbe dovuto rispondere della condotta dei 2 Marò e non i 2 Marò a titolo individuale. Adesso qui, volendo, lei dice il governo italiano aveva tutti gli strumenti, insomma, per rivendicare il ritorno e poi semmai la messa sotto processo, sotto inchiesta dei 2 Marò, però in territorio italiano. Insomma, adesso sinteticamente, professor Sciso, che cosa potrebbe fare l'Italia? Adesso francamente abbastanza poco, nel senso che, come tutti quanti ricorderanno, ci sono state delle occasioni per prendere una posizione diversa, cioè i due Marò sono rientrati in Italia in due occasioni, la prima volta nel dicembre del 2012 per una sorta di licenza natalizia. E poi per le elezioni, no? Per votare. Esatto, esatto. La prima volta sono rientrati, in entrambi i casi questo permesso è stato rilasciato dietro una promessa da parte del ministro degli esteri italiano, accompagnato da un affidavit dell'ambasciatore italiano a New Delhi, che i Marò sarebbero ritornati. E come sappiamo tutti quanti, la seconda volta venne dato dal governo italiano l'annuncio che i Marò non sarebbero rientrati in India, perché di fronte al rifiuto del governo indiano di negoziare una soluzione pacifica della questione, l'Italia riteneva che era nata una controversia con l'India che si doveva risolvere in quel modo, insomma, con la forza, esatto, diciamo così. In presenza della quale non era opportuno che i Marò rientrassero in India. Ora, la controversia con l'India non era nata in quel momento. La controversia con l'India era nata nel momento stesso in cui i due Marò erano stati arrestati. L'India aveva affermato la sua giurisdizione esclusiva sull'incidente e l'Italia a sua volta aveva rivendicato la sua giurisdizione. Ora, se l'Italia in quel momento avesse fatto valere l'esistenza della controversia, avrebbe potuto, per esempio, sulla base di questa convenzione sul diritto del mare di cui sono parti entrambi gli stati, avrebbe potuto chiedere di risolvere la controversia rivolgendosi eventualmente anche ad un giudice internazionale, quindi ad una commissione arbitrale. Quindi, insomma, di cose, professor Sciso, capisco che se ne potevano fare molte. Adesso comunque il governo indiano dice che deciderà in 2 o 3 giorni se appunto c'è questo rischio di pena di morte, quindi non ci resta che stare a vedere se anche il governo italiano sta a vedere o fa qualcosa. Professoressa Elena Sciso, io intanto la ringrazio e la saluto, le auguro buona serata, buona continuazione. Ringrazio lei e gli ascoltatori, arrivederci. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Allora, abbiamo parlato anche dei Marò e vi ricordo quali sono gli altri fatti principali della giornata. A proposito del Piemonte, con il TAR che annulla le elezioni regionali 2010, il presidente attuale Cota assicura farò ricorso, mentre l'ex presidente Mercedes Bresso, soddisfatta, dice però in questi anni c'è stata una maggioranza abusiva. Poi è venuto l'incontro tra Letta e Renzi oggi a Palazzo Chigi e Berlusconi intanto annuncia e vuole candidarsi alle europee. La vicenda dei Marò l'avete appena sentita, perché torna il rischio della pena di morte. Per gli acquisti, partenza positiva per i saldi invernali. E siamo allo spazio dedicato all'Europa. Questa sera si parla del peso dell'aria per la nostra salute. Come si muove l'Europa su questo tema fondamentale? Bene, è stato varato un pacchetto da parte dell'Unione Europea su qualità e innovazione. Europa 24 notte. Verso le europee. Oltre ad essere la principale causa ambientale di decessi prematuri nell'Unione Europea, la qualità dell'aria ha un impatto anche sulla qualità della vita, perché causa l'asma e i vari problemi respiratori. Lo sappiamo da alcuni decenni ormai, ed è dai primi anni 2000 che a Bruxelles un gruppo di specialisti lavora per definire un pacchetto comune di misure per migliorare la qualità dell'aria non solo in un paese, ma in tutti e 28 i paesi dell'Unione. Norme sui motori dei mezzi in circolazione, sui riscaldamenti urbani, sanzioni da una parte, finanziamenti per il sostegno delle nuove tecnologie dall'altra, ma anche infrastrutture, a volte addirittura colossali, come il Transalp, che permetterà di far respirare meglio i ticinesi, i vallesi, tutti gli altri svizzeri europei associati che pagano il traffico di transito. Per rispondere a questo problema, la Commissione ha proposto nuove misure per ridurre l'inquinamento atmosferico, adottate il 18 dicembre scorso, e con questo però non significa che sia fatta, anzi, perché è solo ora che inizia un percorso politico-istituzionale per trasferire i contenuti, magari migliorandoli, nelle legislazioni nazionali. Ecco allora che con le elezioni europee del 25 maggio prossimo votiamo anche per questo, poiché sarà il nuovo Parlamento, Parlamento europeo ovviamente di fatto, a decidere come crescerà il pacchetto aria. L'inquinamento atmosferico provoca molti danni, ma anche la perdita di giorni lavorativi e spese sanitarie, e chi ne risente in maniera particolare sono i gruppi più vulnerabili, i bambini, le persone anziane, chi soffre di asma. Altrettanto estesi sono i danni al sistema, all'ecosistema. Basti pensare a quelli dovuti all'eutrofizzazione, alle piogge acide. I costi diretti per la società derivanti dall'inquinamento comprendono i danni alle colture, agli edifici, ammontano a circa 23 miliardi di euro l'anno. I benefici per la salute derivanti dall'attuazione del pacchetto aria pulita sono pari a circa 40 miliardi di euro l'anno, cioè oltre 12 volte i costi per la riduzione dell'inquinamento, che si stima possano raggiungere i 3,4 miliardi di euro l'anno nel 2030. Janez Potocnik, commissario responsabile per l'ambiente, ha ricordato che l'aria che respiriamo oggi è molto più pulita di quella dei decenni passati, ma anche che l'inquinamento atmosferico continua a essere un killer invisibile. Ecco allora che questo pacchetto serve per tutelare i gruppi vulnerabili, per migliorare la qualità dell'aria, ma anche per dare impulso all'industria delle tecnologie pulite, che è un importante motore di crescita per l'Europa. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso lasciamo stare l'Europa, ritorniamo sulle cose proprio strettamente presenti sul nostro territorio. Leggo ancora due vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Mi raccomando, non indugiate per nessun motivo a iscrivervi alla pagina Effetto Notte. Rosetta scrive: se va a casa la Giunta del Piemonte, perché non va a casa anche il Parlamento eletto con una legge illegittima? Diciamo, sono due questioni un po' diverse, però può essere un'opinione. Poi Alberto dice: come si può? Si può giudicare un'elezione dopo 4 anni, e adesso questi anni chi ce li ridà indietro? Si sta perdendo tempo a scapito della gente che sta morendo poco a poco. Ma adesso dobbiamo fare un salto dall'altra parte del mondo, a Las Vegas, dove c'è il nostro Enrico Pagliarini. Enrico, buonasera a tutti. Enrico è lì per la più importante fiera internazionale dedicata all'elettronica di consumo, oltre che naturalmente anche un po', diciamo, per svagarsi. Senti Enrico, ieri ci hai raccontato di un po' di cose futuribili che però già ci sono. Per quanto riguarda, non so, le produzioni italiane, italiani, il loro genio, le loro fughe all'estero di neuroni, cosa hanno prodotto? Allora, gli italiani come sempre sono in pochi, ma quando ci sono eccellenti. Allora, questa mattina ho visto una stampante 3D che esiste già, quindi è una cosa che è già possibile utilizzare. La stampa 3D è uno dei grandi trend di questi anni, quindi la possibilità di creare proprio in casa dei prodotti. Certo, non siamo ancora ad un utilizzo di massa, quindi lo possono fare quelli un po' più bravi con la tecnologia, però stiamo vedendo, sono prodotti che si stanno espandendo. Che è una cosa poi straordinaria, Enrico, perché sento che si possono addirittura costruire armi, fare oggetti incredibili con questa stampante. Io mi chiedo ancora come sia possibile, non ne ho ancora vista una, ma tu invece sei lì sul posto. Sì, guarda, già oggi le stampanti 3D si possono utilizzare ed effettivamente si possono fare un sacco di cose, prevalentemente cose di plastica, quindi con dei polimeri si possono, con degli uccelli che spruzzano questi polimeri, si possono fare cose veramente incredibili. Questa stampante che ho visto questa mattina di questa azienda tecnologicamente molto evoluta che si chiama TVS, un'azienda veneta di Zanè in provincia di Vicenza, fa la stessa cosa che fanno molte altre stampanti, ma con una tecnologia molto complessa e sta cominciando a diventare una tecnologia a basso costo. Mi spiego. Una tecnologia che viene utilizzata già da un po' di tempo nelle industrie, oggi loro presentano qui negli Stati Uniti un prodotto che costa $5,000, ma se noi stiamo parlando di macchine che costavano fino a poco tempo fa decine di migliaia di euro, e loro prevedono nei prossimi mesi di fare una cosa molto più a basso costo, quindi direi che nel giro di pochissimi anni avremo stampanti tecnologicamente molto avanzate che possono produrre pezzi, tipo produrre in casa un pezzo, basta usare la fantasia, un progetto che magari compri su internet per $2 e poi ti stampi in casa un qualsiasi apparecchio. Ci sono anche stampanti che costano molto meno, $500-$600, sono un po' più complesse, ma sono anche tecnologicamente un po' più limitate nel prodotto finale. Devo dire che questa tecnologia italiana tutti la guardavano con grande stupore. Ci sono altre aziende, c'è Tecnogym che presenta delle macchine per le palestre, per lo sport. C'è un'altra azienda che è sconosciuta all'estero, un'azienda modenese, si chiama IK Multimedia, vende per il 95% nel mondo e produce accessori per musicisti che vogliono utilizzare l'iPhone, un tablet, uno smartphone per fare effetti per la voce, per la propria chitarra, per la musica in generale. Devo dire che, come dicevo prima, insomma, gli italiani sono pochi, e questo certamente è un po' da un certo punto di vista triste, però quello che fanno lo fanno ad altissimo livello e tutti guardano quello che gli italiani fanno con il solito nostro genio. Su questo posso confermare che manteniamo la barra dritta. Senti Enrico, in questo minuto che ci rimane, invece una cosa in assoluto, la prima in classifica, al di là che non sia italiana, che ti ha colpito? Allora, la prima in classifica, allora, è sicuramente difficile da dire, però potrei dire, tra i tanti braccialetti che ho visto che misurano qualsiasi cosa, ce n'è uno che registra costantemente, tiene in memoria l'ultima ora, cioè gli ultimi 60 minuti di quello che uno ha detto, di quello che ha detto il vicino. Specie di scatola nera. Che... Ma la privacy non è molto salvaguardata, potremmo dire. Ah sì, guarda, su questo diciamo, qui non ci si occupa di privacy. La privacy è sicuramente un tema. C'è anche una piccola fotocamera che si attacca al taschino, e io presumo che nel giro di pochissimi anni diventerà una cosa che si mette nel bottone ed è invisibile, che scatta una fotografia ogni 30 secondi. Così se per caso tu dici, ma oggi alle 12.30 dov'è che ero? Vai a vedere. Per chi ha poca memoria, spero che non sia il caso tuo, perché ha poca memoria. Grazie Enrico Paglierini da Las Vegas, buon divertimento. Grazie a voi. Ciao Enrico. Adesso invece è tempo di sapere che tempo farà nel fine settimana col colonnello Mario Giuliacci. Ciao Mario. Ciao Roberta, buonasera agli ascoltatori. Sai, diciamo che nulla di nuovo sotto il sole, anzi sotto le nuvole, perché il tempo sarà quello grigio e uggioso che abbiamo visto soprattutto al nord. Si sta come d'autunno, si potrebbe dire, sì, citando, guarda, un po' Ungaretto. Oggi scrivevo sul mio articolo, sul mio sito, no? Un tempo più che invernale, un tempo autunnale. Quindi c'è i grigi, no? Soprattutto sul nord Italia, il sereno però sulle Alpi e gran parte del meridione. Le nebbie consuete sul Veneto, l'Emilia, le zone interne del centro, la Puglia, la Lucania, tutto qui è, diciamo, per il sabato e la domenica. Invece lunedì ci saranno svolta, perché già al mattino ci saranno delle piogge al sud per una perturbazione di origine africana, poi alla fine della giornata di lunedì giunge una perturbazione dall'Atlantico, piogge dapprima sulle regioni di nord-ovest e poi su tutto il nord nel corso della notte tra lunedì e martedì. Martedì una giornata piovosa su tutta l'Italia, di stampo autunnale ovviamente, ma con nevicate sulle Alpi oltre 600-700 metri. Poi mercoledì migliora su tutto il centro-nord, ancora qualche pioggia sulle regioni meridionali, e poi da giovedì e venerdì insomma bel tempo su tutta l'Italia. Meno oltre non dico, perché insomma aspettiamo con pazienza il giovedì. Allora grazie colonnello Mario Giuliacci, il resto su www.meteogiuliacci.it. ciao colonnello, buon tempo a te comunque sia. Grazie Roberto, un saluto a te e agli ascoltatori, buonasera. Saluto agli ascoltatori, io vi do l'appuntamento tra pochissimo, ci fermiamo adesso.